Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Salva Danaio. Anche quella di ieri, eppure stamattina per la verità qualche disagio si sta verificando, è stata una giornata complicata per molti cittadini che si sono recati negli uffici postali. Il guasto informatico che già nei giorni scorsi aveva mandato in tilt il sistema delle poste italiane si sta continuando a ripresentare, creando rallentamenti e disagi all'operatività agli sportelli. Chi non può ritirare la pensione, chi non può effettuare pagamenti, la rosa dei disagi è ampia, ci si aspettava un ritorno totale alla normalità in tempi rapidi, invece alcuni intoppi ci sono ancora, con non poche perdite di tempo per i clienti, anche se gli impiegati in queste ore e da sabato scorso sono impegnati in diverse ore di straordinario. L'azienda ha accolto la richiesta delle associazioni dei consumatori di aprire un tavolo di conciliazione finalizzato a risarcire gli utenti danneggiati dai disagi informatici di questi giorni, ma comunque questo non cambia la sostanza delle cose. Ci si chiede che cosa sia successo e oggi allora facciamo un punto della situazione per capire anche a che tipi di risarcimenti ed indennizzi stanno puntando le associazioni dei consumatori che hanno chiesto questo tavolo di conciliazione con l'amministratore delegato delle Poste, appunto Massimo Sarmi. Stamattina con noi. Intanto io ancora continuo a fare un po' di fatica a parlare, perdonatemi, non sto nelle piene condizioni di salute. Daniele Lepido, collega delle Sole 24 Ore. Daniele, buongiorno, ciao. Buongiorno a tutti. Io ricordo anche che oltre ad aver scritto questa mattina su Economia e Imprese delle Sole, Daniele ha anche un seguitissimo blog che si chiama, un nome bellissimo gli hai dato, Daniele, I Bastioni di Orione. Sì, è una citazione dal film di Blade Runner. Ecco, sì. Ne avevi già scritto ieri appunto sul tilt delle poste che sta andando avanti da sabato scorso, poi magari ripercorre anche quello che è accaduto in questi giorni e soprattutto per capire anche già che iniziative concrete stanno prendendo le associazioni dei consumatori. Stamattina abbiamo interpellato Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che saluto. Presidente, buongiorno, avvocato. Buongiorno a voi. E grazie anche di essere intervenuto con noi questa mattina. Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, 800 24 00 24, il numero verde come sempre per permettervi di intervenire in diretta nella nostra trasmissione. Neanche l'ho lanciato nel giornale radio, già si sono scatenati ai centralini, questo ci fa piacere, non ci fa tanto piacere perché evidentemente comunque statisticamente è molto alto il numero delle persone che in qualche modo sta in questi giorni è incappato nel disagio agli uffici appunto delle poste italiane, agli sportelli delle poste. 349-238-6666 il numero per i vostri messaggi, oppure ci potete scrivere al 349-238-6666. Rapidamente la borsa: Parigi e Francoforte guadagnano lo 0,6%, Londra più 0,14, Milano più 0,18%, stanno ritornando a scendere tutte le banche. A Piazza Affari l'euro sul dollaro a 1,46,75. Non voglio parlare tantissimo di borsa oggi perché voglio andare subito al tema di oggi e a raccontare quello che è successo in questi giorni agli uffici delle Poste Italiane. Giorni di caos e disagi negli uffici di Poste Italiane, con terminali fuori servizio, cittadini esausti, anziani in coda nel tentativo di ritirare la pensione. Il blocco che persiste in tutta Italia ormai da giorni è stato originato dal malfunzionamento del sistema informatico, per la precisione, da un guasto alla nuova piattaforma che ha rallentato le operazioni di tutta la penisola. E anche se il blackout è stato arginato, almeno in parte, i disagi non si fermano, tanto che ieri è scesa in campo l'autorità per le comunicazioni, che ha definito inaccettabile l'accaduto e ha chiesto alle poste di fare chiarezza, individuando i responsabili. Sul piede di guerra anche le associazioni dei consumatori, che hanno invitato Poste Italiane ad aprire un tavolo di conciliazione per risarcire tutti coloro che hanno subito dei danni, ipotesi che scongiurerebbe l'avvio di una class action da parte di tutti i clienti che hanno subito disagi. L'invito è stato accolto dall'azienda, che nei prossimi giorni si incontrerà con le associazioni per fare il punto della situazione. Nel frattempo, il consiglio per tutti coloro che si sono ritrovati a trascorrere ore in attesa è quello di conservare tutte le prove dei disagi subiti, come ad esempio bollette, fatture e contravvenzioni scadute. Insomma, documenti utili per dimostrare i danni materiali legati al disservizio. Allora, alcuni ascoltatori ci stanno chiedendo come mai non avete interpellato anche le Poste Italiane, ma secondo voi noi le abbiamo interpellate? Le abbiamo interpellate sì, ieri abbiamo negoziato duramente per avere una loro presenza questa mattina in trasmissione. Devo dire anche comprensibilmente ci hanno chiesto qualche giorno di tempo per appurare una volta per tutte quello che è accaduto e anche per capire che cosa poi potranno dire a questo tavolo di conciliazione aperto che hanno accettato appunto di aprire con le associazioni dei consumatori. Noi però abbiamo deciso ugualmente di fare la trasmissione, abbiamo messo insieme un bel po' di ospiti ugualmente. In ogni caso, sulle spiegazioni relativamente a questo disagio di questi giorni ci ha detto qualcosa il responsabile dell'ufficio comunicazione di Poste Italiane Milano, Agostino Mazzurco, che abbiamo sentito ieri. Ribadiamo insomma uno stralcio della sua intervista che ci ha rilasciato proprio nella giornata di ieri. Siamo passati a un nuovo sistema operativo e come ogni volta quando si inizia chiaramente un nuovo progetto, un nuovo programma, c'è sempre una fase di rollout che è fondamentale. Un software che permetterà di velocizzare di molto l'operatività allo sportello, quindi una riduzione ulteriore dei tempi di attesa allo sportello. Allora, Daniele Lepido, questa è divertente perché nel momento in cui si cerca di attrezzarsi dal punto di vista informatico per velocizzare l'operatività dei servizi avviene il grande blocco. Ecco, so che tu già fino a questa mattina hai sentito le persone delle Poste Italiane, hai qualche dettaglio in più rispetto a questo blackout informatico che ha paralizzato gli uffici postali di tutta Italia. Cosa è successo? Ma intanto bisogna dire che l'operazione di aggiornamento di un software, di un sistema operativo è un'operazione insieme banale e temutissima dai responsabili IT di qualsiasi azienda, perché tutto può filare liscio ma si possono anche creare dei problemi. Questo avviene banalmente anche con i sistemi operativi che utilizziamo a casa o negli uffici. C'è la famosa patch, la famosa pezza che si mette, che si scarica per risolvere un problema e può essere che invece questa diventi causa di problemi e rallentamenti. Io fino a pochi minuti fa sono stato in contatto con lo stesso Mazzurco, tra l'altro. Sì, anche, so sì, ma anche con i tecnici che stanno lavorando, aperte virgolette, pancia a terra, come mi hanno detto loro, e in effetti è vero, per cercare di risolvere il problema. E la causa precisa non è ancora stata individuata. Ieri si parlava sostanzialmente, allora, quello che si sa di certo è che c'è stato un problema grave al server centrale, cioè al maxi cervellone centrale di Roma, che gestisce tutte le operazioni e gli sportelli. È come se fosse andato in tilt proprio la testa, come dire, il cervello principale del network. Per farvi capire, è un computer che ha la potenza di circa 200 server, perché ha 200 CPU, che sono i microchip centrali dei computer. Ieri questi tecnici mi spiegavano che il problema era venuto proprio sull'aggiornamento del sistema operativo, cioè passaggio da uno vecchio a uno nuovo, che è un software DBM, in realtà non solo DBM, perché si parla di un appalto che è stato vinto nel maggio del 2006 da un raggruppamento temporaneo di imprese che ha coinvolto IBM come capofila, HP, sistemi informativi, che è un'altra azienda DBM, e un'altra azienda che si chiama JPIN. Quindi l'update ha creato dei problemi. In realtà questa mattina, proprio pochi minuti fa, ho sentito uno dei responsabili del servizio IT delle Poste che mi ha spiegato che si parla di un guasto a una componente software che gestisce l'accesso dei terminali allo stesso sistema centrale. Quindi una cosa complessa, il concetto, certo, è, si è rotto. Non un update, quindi un aggiornamento, no, che non è riuscito nei tempi previsti, ma in realtà c'è stato un guasto vero e proprio. O almeno non solo un aggiornamento. C'è una task force che è arrivata dal Canada, dagli Stati Uniti, per lavorare con... Addirittura? Sì. Sono arrivati l'altro ieri. Il problema è che è un danno che sta perdurando dal primo giugno, perché il problema si è realizzato il primo giugno. Tutto comprensibile perché le macchine non sono perfette, naturalmente. Il problema è che quando poi allo sportello della posta ci va la pensionata di 80 anni per ritirare il suo assegno, naturalmente è inutile che gli si stia a spiegare tutto quello che è successo, lei vorrebbe ritirare il suo assegno e poterlo spendere, naturalmente. Certo. Su queste situazioni muovono immediatamente le associazioni dei consumatori. Allora vorrei sentire subito il presidente di Codacons, Carlo Rienzi. L'azienda ieri si è subito scusata con tutti gli utenti vittime di questi disservizi. Il guasto tecnico, Rienzi ci sta, i disservizi sono però stati tanti, a fronte anche della buona volontà sicuramente degli uffici su tutto il territorio, che hanno chiesto a tutti i dipendenti appunto di operare grandi ore di straordinario per ripristinare la situazione al più presto. Allora, voi avete chiesto questo tavolo di conciliazione, le Poste vi hanno accontentato e so che giovedì ci sarà il primo incontro. Cosa chiedete, Presidente? Sì, noi siamo in contatto da venerdì scorso con i vertici di Poste, perché appena abbiamo saputo abbiamo fatto il primo comunicato dicendo che le cose erano inaccettabili, ovviamente, perché le lamentele erano tantissime. Sul mio blog stanno arrivando decine e decine di casi incredibili di persone che non hanno potuto pagare l'affitto perché non hanno potuto riscuotere la pensione o che non hanno potuto pagare bollette o tantissime altre ipotesi che sono quasi da non credersi. E per la verità, fin dal primo momento Poste hanno capito che l'unica cosa era trovare un modo di risarcimento automatico, quindi non farsi fare tante cause quante ne potrebbero arrivare. Adesso giovedì ci sarà questo primo incontro. Noi crediamo che, a parte il danno dimostrato, che è chiaro è legato all'esistenza della bolletta scaduta e quindi la tassa in più che poi dovrà essere pagata, o danni anche più gravi, perché ci sono danni anche se uno non ha potuto mandare una domanda per un'assunzione o per un concorso pubblico o per un appalto o quant'altro, sicuramente lì il danno è molto molto più grave. In quei casi forse si potrebbe, con un decreto ministeriale, fare una proroga dei termini previsti dai contratti o da altri atti simili, e potrebbe farlo il Ministero, il Governo, perché altrimenti diventa una cosa inestricabile. Cioè, effettivamente, questa, perché la casistica è enorme. Io molto banalmente pensavo sì, anche se poi per ognuno il problema è molto grave, a chi non ha potuto ritirare la pensione, chi non ha potuto mandare una missiva, chi non ha potuto fare il pagamento di una multa o di qualsiasi altra bolletta, però lei, Rienzi, effettivamente ci rappresentava come dire una rosa di casi molto più variegata. Molto più variegati, per i quali effettivamente occorrerebbe un provvedimento ministeriale governativo che proroga tutti i termini che scadevano in questo periodo di tempo, come avviene quando c'è lo sciopero degli ufficiali giudiziari, che è cosa che avviene spessissimo. In quel caso c'è un decreto, un provvedimento dell'Ordine degli Avvocati del Ministero della Giustizia che dice tutti i termini scadenti nei giorni di sciopero vengono prorogati dello stesso numero di giorni in cui si avviene lo sciopero. Quindi la cosa secondo me andrebbe anche risolta a livello governativo, e ci aspettiamo i suoi interventi. Abbiamo già chiesto al Ministro di intervenire su questo. Per il resto, se questo non avviene, la casistica sarà sconfinata e complessa, però veniamo, diciamo, al caso più semplice, cioè quello poveraccio che è stato 5 ore ad aspettare. Ora noi abbiamo un servizio che soffre la mancanza di concorrenza, infatti. Ma principe, credo proprio che sia quello. Se uno vede la fila e dice: sai che c'è, io me ne vado a fianco, che c'è l'ufficio della X Recapiti che mi fa la raccomandata, mi fa il conto corrente, me ne vado, no? Anche se adesso ci sono possibilità diverse, pagare attraverso la banca, pagare attraverso agenzie private e così via, però insomma non è che siamo attrezzati ancora, è una finta concorrenza, quindi questo è un po' il problema. Allora, queste persone che hanno aspettato più di quello che è il tempo medio di attesa accettabile, diciamo, che adesso non voglio definire qui mezz'ora o un'ora, perché alla Posta c'è sempre da fare la fila, soprattutto nei giorni di scadenza. Ecco, devo andare in pausa, Rienzi, quindi a queste persone che hanno fatto un tempo di attesa non accettabile? Ecco, non accettabile, va dato comunque un risarcimento che dovrà essere un risarcimento fisso per tutti. Il problema è come provarlo. Se volete ne parliamo dopo. Ne parliamo dopo. Poi l'ADUC ha invece fatto un'altra proposta, quella di mettere già subito in mora le Poste italiane. Poi Mastrantoni ce lo spiegherà. Intanto 800 24 00 24, il numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. C'è Fiorenza dalla provincia di Pistoia, pronta ad intervenire, una pensionata in proprio sabato scorso in questa situazione. Eccoci ritrovati in diretta. Questa mattina cavalchiamo davvero la cronaca cercando di capire cosa sta succedendo agli sportelli delle Poste italiane, bloccati non tutti, la situazione sta progressivamente ritornando alla normalità, ma disagi ci sono ancora, bloccati appunto da sabato scorso, da quando si è verificato questo blackout informatico che ha impedito a molti clienti appunto di essere soddisfatti nel servizio richiesto. Chi non ha potuto e sta continuando a non poter prendere la pensione, chi non può mandare la propria corrispondenza, chi non può effettuare il pagamento di alcune imposte o multe che erano in scadenza. Una rosaria di servizi estremamente ampia che ha portato le associazioni dei consumatori intanto a chiedere l'apertura di un tavolo di conciliazione con le poste hanno accontentato e giovedì si incontreranno tutti, e soprattutto le associazioni dei consumatori stanno intanto di capire come poter quantificare i danni e tramutarli quindi in indennizzi per le vittime di questa situazione. 800 24 00 24, il numero verde per le vostre domande. Sentirei Fiorenza dalla provincia di Pistoia che sta aspettando da un po'. Fiorenza, buongiorno, cosa le è successo? Allora, io sabato scorso sono andata in posta e verso le 11 certe operazioni le facevano e certe altre no, per cui non facevano i pagamenti. Sono tornata a casa. Lunedì sono ritornata e qualcuno diceva che avevano finito i soldi, i pagamenti non li facevano perché avevano finito i soldi. Sono ritornata a casa, lunedì mattina sono andata di nuovo in posta, non ho fatto niente perché fino alle 10 facevano tutte le operazioni, dalle 10 alle 10 e mezzo in poi non facevano più i pagamenti, poi verso mezzogiorno non facevano addirittura più niente. Ah beh, Fiore, quindi lei è riuscita a prendere la sua pensione oppure doveva fare qualcos'altro? Fiorenza? No, l'ho ancora presa, no. Ah, no, però sono andata sabato, il lunedì non l'ho ancora presa. Cioè, Fiorenza, oggi ho fatto a meno di andare perché intanto non so. Ah, addirittura non... completamente scoraggiata, addirittura rinunciato. Fiorenza, grazie, ma magari ritorni, forse questa mattina all'ufficio della sua zona la situazione è ritornata alla normalità. Mi fa divertire la serie di leggende metropolitane che si crea, non pagano perché hanno finito i soldi, Daniele, no? In realtà stavamo riflettendo su un altro aspetto con Daniele Lepido a microfoni spenti, cioè il fatto di aver deciso, comunque se questa poi fosse stata la causa di tutto il blackout, di aver deciso un aggiornamento di un sistema informatico così importante, così complesso, a cavallo fra due mesi, quando ci sono tante scadenze, quando devono essere accreditate le pensioni e quindi ritirate, per cui è stato un errore abbastanza importante, riteniamo, da parte delle poste. Ma io credo che sia sicuramente questo un elemento di criticità. Bisogna dire che il sistema informatico delle poste è molto complesso. Si parla di oltre 14.000 uffici postali e di 60.000 postazioni, quindi è un network veramente complicato. Da quello che mi hanno detto ieri, ma anche oggi, tecnici delle poste, sono stati effettuati dei test che sono durati 4 settimane. Io ritengo che comunque fare un passaggio del genere, appunto, al cambio del mese sia complesso e sia forse non, probabilmente non era adatto, anche perché ci sono i pagamenti, le pensioni, è vero anche che c'era il ponte del 2 giugno, però al netto anche di questa cosa comunque delle criticità c'erano. Io ho cercato di chiedere ragione ieri ai tecnici e mi hanno detto che loro comunque erano sostanzialmente certi, erano sicuri, perché avevano fatto questi test ed è ovvio che li abbiano fatti, dei test standard di 4 settimane. Detto questo, i computer sono degli stupidi con tanta memoria, come dice qualcuno, quindi a volte la memoria può fare cilecca, come in questo caso. Esatto, e tra l'altro l'altra grande questione da affrontare è che non è che i danni siano stati o di servizi uguali ovunque, c'è stata, come tu l'hai definita, Daniele, una situazione molto eterogenea, variegata, a macchia di leopardo, cioè magari a Pistoia, come è successo alla nostra ascoltatrice, non si potevano ritirare le pensioni, in un altro ufficio in tutt'altra parte d'Italia il disagio era di tutt'altra natura. Anche questa è una situazione appunto da ricostruire. Anche questo, ci sono stati dei momenti in cui il disagio era sicuramente più allargato. E poi non possiamo ancora definitivamente parlare al passato. No, assolutamente, perché adesso la situazione sta lentamente tornando alla normalità, ma dei disagi ci sono ancora. Il problema appunto è stato questo, che comunque in alcuni uffici postali veramente era tutto bloccato. Vorrei ricordare che ieri alle 11:30 si è verificato un nuovo blackout. È da lì che poi abbiamo iniziato a dare notizie, a martellare anche online, insomma. Benissimo, 800 24 00 24, numero verde per continuare a prenotare i vostri interventi. Fra un po' sentiamo Daniele da Padova, prima però, se no penserà che lo abbiamo chiamato solamente per sentire parlare noi. Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, ancora buongiorno segretario. Buongiorno, allora voi, buongiorno. Voi avete scritto subito il vademecum rivolgendovi ai vostri associati, lo avete già divulgato il 4 giugno attraverso appunto la vostra consueta newsletter, subito dando le istruzioni precise ai vostri associati su come, come dire, comportarsi in un frangente così complicato come quello che si è maturato in questi giorni, suggerendo in primo luogo la messa in mora delle poste. Cosa devono fare secondo voi i consumatori in questo momento? Sì, ognuno può fare una raccomandata con avviso di ricevimento, che purtroppo ahimè deve fare alle poste. Ah beh, ma questa è divertentissima. Ecco. Segna qualche cosa indirizzata appunto alle poste in cui si fa presente cosa è accaduto e precisando i danni subiti, materiali, fisici, psicologici eccetera, e intimare il pagamento entro 15 giorni, altrimenti ci si rivolgerà alle autorità giudiziarie. Il pagamento di che cosa? Di quanto per esempio non si è potuto pagare in questi giorni? Ci sono diversi casi, quello che si vede raddoppiata la multa perché non ha pagato in tempo e quindi il raddoppio della multa, quello che non ha pagato una bolletta di qualsiasi utenza e quindi ha un aggravio ulteriore dovuto agli interessi o alle more, faccio un esempio. Oppure di una tassa che doveva pagare e che non ha potuto pagare, per cui c'è una, anche qui ci sono delle penalità. Tutto questo comporta un aggravio di costi che può essere quantificato nel raccomandato con avviso di ricevimento. C'è pervenuto un caso sempre kafkiano proprio in questi giorni, tanto per citarne uno fra i tantissimi che ci sono arrivati, è quello di una ragazza che doveva fare una domanda per un concorso ministeriale e visto che le poste non funzionavano si è rivolto direttamente al ministero a cui doveva fare domanda chiedendo lumi. Il ministero ha detto: ma lei ci faccia fare una dichiarazione dalle poste che l'ufficio era in tilt, praticamente non poteva funzionare e quindi noi potremmo prorogare i termini. È solo che le poste non rilasciano questo tipo di certificazione e soprattutto le poste sono una SPA a capitale pubblico, forse sarebbe bene che dialogassero fra di loro. Tra di loro, insomma, un po' un evidente conflitto di interessi. Infatti, allora, quindi Mastrantoni, le indicazioni sono queste. C'è un ascoltatore che ci scrive al 349-238-6666, così un po' preoccupato del fatto che questa situazione possa perdurare, e ci dice: io devo pagare l'acconto ICI il 16 giugno, abbiamo fatto su questo tema proprio ieri la puntata. Se continua così, come dobbiamo comportarci? Beh, intanto questa situazione speriamo che si sblocchi al più presto e che tutta questa task force, persino arrivata dagli Stati Uniti, possa davvero ripristinare tutta la regolare operatività degli uffici postali, ma nel giro veramente di pochissime ore, speriamo. Però Mastrantoni, effettivamente, per chi ancora deve pagare in questi giorni pensando che effettivamente nel fine settimana tutto si rimettesse in regola, che cosa si fa? Ecco, il 16 bisogna pagare per esempio le ritenute, gli famosi F24, no? Anche queste non si pagano, poi si va incontro a delle penalità. Quindi si può scaricare proprio con la lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'aggravio maggiore alle poste per il disservizio che si è ottenuto e quindi il più che si paga si fa pagare alle poste. Allora, io sono sicura che ne continueremo a parlare ancora di un bel po' di tempo, di tutti gli strascichi e le conseguenze della situazione di questi giorni. Carlo Rienzi, torno da lei, avvocato, presidente del Codacons, per ritornare sui bonus che voi avete intenzione di chiedere appunto come indennizzi per i disagi subiti dai clienti delle poste in questi giorni. E avete intenzione, da quello che ho capito, di chiedere bonus variabili tra i 50 euro o qualcosa di meno, 25 euro, anche a seconda delle ore di attesa che si sono dovute sopportare in questi giorni per fare appunto le operazioni che era necessario fare. Io ricordo che con Autostrade per l'Italia è ormai quasi finita la conciliazione, abbiamo avuto migliaia di persone che bloccate dal ghiaccio sono state risarcite secondo il numero delle ore che sono rimaste bloccate dal ghiaccio. Ricordo ancora che a nostro parere spendere altri 5 euro per una raccomandata è inutile, perché a parte che si può fare entro 10 anni questa raccomandata, ma se c'è un tavolo di conciliazione gratuitamente basta mandare, riempire i moduli che sono probabilmente adesso saranno su tutti i siti delle associazioni, da noi c'è dove si delega l'associazione a trattare spiegando qual è stato il problema, qual è il danno e così via, questo non costa nulla e poi si può sempre non accettare quello che viene proposto da posto, quindi se è troppo poco uno può andare per conto suo, fare causa e quant'altro, ma è inutile spendere 5 euro una raccomandata. Volevo dire ancora che a mio parere poi qui non pagherà nessuno, nel senso che sicuramente Poste, se la responsabilità, non pagherà nessuno nel senso che pagheranno le assicurazioni, se Poste la responsabilità la dimostra a carico di chi ha fornito il sistema informatico, sarà questa società e quindi le compagnie di assicurazione che hanno a pagare, quindi alla fine non è un grosso problema. E se solo in Italia quando si parla di risarcire sembra che si chiede la luna nel pozzo, ma in un altro paese sarebbe stato immediato automatico, cioè intervengono le assicurazioni, quelle della società che ha fornito il servizio, quelle delle Poste che avranno anche le loro, e si paga quello che c'è da pagare, naturalmente con un esame, come si fa il perito quando va a vedere la macchina, l'incidente, come sta la macchina eccetera, con un esame della documentazione che noi diciamo deve bastare a un'autocertificazione, perché io non posso mettermi a cercare i testimoni che sono stato 2 ore, 3 ore, 5 ore in fila. Quindi tarato l'attesa e non è posto dalla normale attesa che nei giorni di scadenza può essere di 40 minuti o un'ora, il di più sicuramente va a risarcire in qualche modo. Vedremo giovedì come va a finire. Come va a finire, certo, e poi magari ci risentiamo anche noi con un'altra bella puntata nei prossimi giorni. Allora, eccoci ritrovati in Salvadanaio per l'ultima parte della nostra trasmissione. Oggi abbiamo voluto indagare un po' su quanto sta accadendo agli uffici delle Poste italiane dopo la vera e propria paralisi che si è verificata sabato scorso, non completamente risolta né ieri né oggi, determinata da questo blackout informatico che ha avuto appunto un'origine piuttosto complessa, ce l'ha spiegata il nostro collega del Sole 24 Ore, Daniele Lepido, poco fa. Adesso stiamo cercando di capire che tipo di negoziato apriranno le associazioni dei consumatori per garantire un adeguato indennizzo a tutte le vittime di questi disservizi, che sono stati tanti, di natura varia. E allora abbiamo ancora qualche testimonianza da parte di qualche ascoltatore. Daniele da Padova, buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Molto semplicemente, da una settimana che si prova ad andare in posta per pagare le bollette, tra l'altro scadute, perché già la posta ti manda le bollette scadute, poi addirittura vai in posta per pagarle e non c'è neanche la possibilità, quindi parte la morosità delle varie ditte, tra cui la Telecom, lascia stare perché stendiamo un velo pietoso per i risarcimenti che poi eventualmente ti daranno. E poi la seconda cosa volevo chiedere semplicemente, se la posta non funziona, dov'è che si può andare? In internet, in tabaccheria, dove? Tutta l'alternativa appunto per pagare, ma generalmente magari sulle bollette, un'indicazione su a quali, come dire, istituti di credito piuttosto che mezzi ci si può appoggiare per il pagamento, le bollette lo indicano abbastanza, seconda chiaramente del rapporto commerciale che si ha con il proprio fornitore. Daniele, credo che banalmente si possa anche fare una telefonata al numero verde, per esempio, dell'azienda. No, allora, io sono impossibilitata a pagare, mi date un'alternativa perché non voglio essere né moroso, non voglio cadere in qualche sanzione? Intanto io una delle cose che ho cercato di appurare tra ieri e oggi è cercare di capire che cosa l'avesse colpito questo bacco informatico, questo problema informatico, e riguarda, tra virgolette, solo gli sportelli, cioè le Poste sostengono che il canale online funziona, così come anche dovrebbe esserci la possibilità di pagare le bollette su i conti, attraverso dei conti correnti online che permettono di farlo. E infatti, quindi, magari sentiamo Mastrantoni dell'ADUC, presidente, segretario, cosa dice? Ma sì, le modalità di pagamento delle bollette sono varie, anche delle stesse multe si possono fare in diverse modalità, quindi non è l'ufficio postale l'unico referente per il pagamento, quindi basta informarsi comunque quando arriva la multa, in genere c'è scritto quali sono le modalità di pagamento, cioè a chi rivolgersi per pagare, che sia l'ufficio postale, sia la banca, siano altre strutture a ciò predisposte, insomma, quindi non c'è un'esclusiva per questa tipologia di pagamento. Per altre cose, insomma, la raccomandata con avviso di ricevimento, le Poste è l'unico depositario di questo titolo, no? Di questo servizio, per cui bisogna rivolgersi direttamente alle Poste, o l'altra, se è prevista, la consegna manuale all'ufficio recapiti della struttura ministeriale o pubblica a cui si fa riferimento, insomma. Se questa è prevista, c'è la consegna manuale diretta presso l'ufficio recapiti dello Stato, della Regione, del Comune, della Provincia, eccetera, questo si può fare. Bisognerebbe leggere appunto il bando di concorso e vedere quali sono le modalità di consegna. Certo. Però insomma, proprio per ridare un'ultima indicazione all'ascoltatore di Padova, io credo proprio che magari andando a leggere attentamente la bolletta che gli è arrivato, in genere le compagnie, le società, i gestori appunto di determinati servizi indicano più modalità di pagamento, non ce n'è mai uno esclusivo, perché altrimenti qua sarebbe la fine. Giuseppina dalla provincia di Modena è la responsabile di un ufficio postale di un paese della provincia. Giuseppina, buongiorno. Sì, buongiorno. Io lavoro presso l'ufficio postale di Vignola di Modena e vorrei tranquillizzare tutto il bacino di utenza di Vignola e anche dei paesi limitrofi, sì, che noi stiamo lavorando a pieno regime, proprio perché abbiamo ancora la vecchia piattaforma, per cui già da diversi giorni stiamo servendo un bacino di utenza che si allarga molto e che va oltre i confini di Vignola. Giuseppina, diciamo che in questo frangente, meglio così, le Poste Italiane non saranno tanto contente appunto del fatto che il loro investimento invece per migliorare la qualità e la velocità dei loro servizi non stia andando così bene. Giuseppina, grazie, speriamo che tutti gli utenti di quella zona abbiano sentito, ma se non hanno avuto dei servizi se ne saranno probabilmente già accorti. Stiamo andando verso la chiusura. Daniele Lepido, c'è un'altra bella partita della quale probabilmente ancora non si è parlato molto, ma è chiaro che Poste Italiane proprio zitte zitte su questo disservizio che loro hanno subito dal punto di vista informatico da parte delle grandi società che citavi prima. Insomma, non è anche chiuso, no, certo, quel capitolo per niente. Beh, infatti adesso le società stanno ovviamente lavorando gomito a gomito per cercare di risolvere il problema. Da quello che ho appreso, credo che dopo il capitolo tecnologico si aprirà quasi certamente quello legale, perché è probabile che Poste si rivarrà su IBM, HP con una causa. Questo mi sembra che sia piuttosto nell'aria. Vedremo se si andrà avanti anche su questa strada, però credo che è probabile. Volevo dire un'altra cosa, c'è un mio vice caporedattore che è Maria Piera Ceci, che mi ha ieri molto accuratamente invitato nel fare questa trasmissione, che mi suggerisce di dire che l'online, per la verità, non va. Delle Poste Italiane ha fatto diverse prove, per cui qualche, Daniele, bisognerà indagare anche lì, da qualche parte l'operatività è bloccata anche appunto anche con il canale online. Ieri le Poste sostenevano che il blackout riguardava solo gli sportelli. Sì. Allora, la nostra trasmissione sta volgendo al termine. Io per adesso abbiamo fatto un punto della situazione con l'emergenza che ancora è più o meno piena. Vedremo la prossima settimana se sarà il caso di riorganizzarla, se le Poste Italiane hanno stabilito qualche cosa di più preciso su come e se vogliono soprattutto indennizzare le vittime dei disservizi di questi giorni. Sicuramente la storia non è finita qua, perché appunto il domino è stato notevole e ancora molti utenti delle Poste Italiane, come avete sentito, stanno pagando le conseguenze di questa situazione problematica di questi giorni. Daniele, grazie, vi ricordo ancora il blog di Daniele Lepido, I Bastioni di Orione. Ringrazio Primo Mastrantoni, segretario dell'ADUC, Carlo Rienzi, presidente del CODA, consa che ci ha lasciato invece qualche minuto fa. Salva Danaio torna domani, vi auguro una buona giornata.